Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre alcune brevi informazioni di servizio. Il sito radio24.it, consultatelo, consultate il mio blog che trovate Guardie o Ladri, lo trovate anche sull'home page del Sole o attraverso qualunque motore di ricerca. Potete scaricare le puntate, quelle della mia trasmissione che va in onda la mattina presto, ma qualunque altra trasmissione in tempo pressoché reale e in qualunque momento della giornata, quindi quando siete più comodi. E poi la seconda informazione in servizio è quella della nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Era un po' che non facevo questa segnalazione relativa al fatto che, mi raccomando, i casi siano di natura non personale, personalissima. Ultimamente ne stanno arrivando tante di queste segnalazioni, scusatemi ma non posso prenderle in considerazione perché non riguardano, non sono casi che possono diventare casi generali o magari anche soltanto incuriosire chi rimane all'ascolto, quindi abbiate pazienza, mi fa piacere che le mandiate ma non posso prenderle in considerazione. Allora, abbiamo invece preso in considerazione che cosa? La mail scritta alcuni giorni fa da un nostro radioascoltatore della provincia di Roma, ci troviamo a Genzano, Flavio Napoleoni, che aveva fatto presente la sua storia abbastanza, come dire, burocratica con l'ASL Roma H. Perché l'abbiamo messa in considerazione? Perché dedichiamo oggi questa seconda puntata? Perché il nostro radioascoltatore Napoleoni è un insulino dipendente, cioè un diabete, è un diabetico cronico, non può fare a meno dell'insulina, probabilmente stretta dalla morsa sanitaria, probabilmente stretta dai controlli che devono farsi sempre più appunto stringenti. Scusate il gioco di parole. La Regione Lazio ha deciso in ogni caso, anche nei confronti dei malati cronici, di avere un'attestazione che annualmente o comunque periodicamente attesti quanti presidi ha bisogno un malato affetto da diabete cronico. Anzi, colgo l'occasione per dire ad altri radioascoltatori che magari fossero all'ascolto in altre regioni, anzi sicuramente ci sono all'ascolto in altre regioni, che avessero dei problemi comunque, diciamo così, di natura varia, complessiva, nei rapporti con la loro regione, con le loro aziende sanitarie, di farcelo presente. Allora, dicevo, abbiamo ascoltato la risposta anche dell'ASL Romacca, che ha preferito mandare una nota scritta, non intervenire direttamente in trasmissione. Sarebbe stato meglio, perché abbiamo sentito che la risposta dell'ASL Romac faceva molto riferimento appunto a questa direttive stringenti, quindi presidi da prescrivere annualmente nonostante la presenza di diabetici cronici. E abbiamo ascoltato la replica di Napoleoni, che diceva: io francamente lo sapessi lo farei, ma non riesco a dirlo, cioè comunque sia non è applicabile questa disposizione al mio caso. Allora, per cercare di aprire un po' più la discussione fuori anche dalla Regione Lazio, cominciamo già a farlo, io ho chiamato in trasmissione a parlare con noi Tonino Aceti, di Cittadinanza Attiva, Tribunale del Malato e Presidente del Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici. Buongiorno Aceti. Buongiorno a voi. Allora, innanzitutto un commento su quello che ha ascoltato nella puntata mandata in onda ieri. Beh, sicuramente ciò che ha riferito il nostro ascoltatore cittadino esprime delle difficoltà reali che nella Regione Lazio esistono, confermate poi tra l'altro anche dalla nota dell'ASL RMH. Effettivamente la Regione Lazio, a causa dei forti disavanzi nel settore sanitario accumulati negli anni, in questi ultimi periodi, anni, sta procedendo con un piano di rientro molto pesante, in particolare con riflessi importanti sulla vita dei cittadini, sia a livello di prestazioni sanitarie, come in questo caso, sia a livello di anche imposizione e aumento delle aliquote IRPEF ed IRAP. Quindi non solo a livello di prestazioni sanitarie, ma anche a livello di imposizione fiscale. Cioè, insomma, proprio sul portafoglio si sente anche il piano di rientro dal debito della Regione Lazio. Esatto. Sul portafoglio dei laziali aumentano le addizionali, insomma. Esatto, calcoli che si va da un valore medio per l'IRPEF dei 20 euro della Regione Toscana ai 180 della Campania, che stanno, diciamo che è un'altra regione con un piano di rientro. Certo. Quindi sicuramente il problema affermato dal cittadino esiste, nella Regione Lazio esiste, e effettivamente esistono delle norme approvate a livello regionale che prevedono un sistema di monitoraggio e controllo della prescrizione dei presidi e dei dispositivi per il monitoraggio del diabete, dal nome WebCare, che prevede, al fine del rilascio di questi presidi da parte dei servizi farmaceutici, la consegna da parte del cittadino del piano prescrittivo del medico diabetologo. Quindi diciamo così che lei, come dire, descrive e vede questa serie di normative, questa disciplina della Regione Lazio come un male necessario, purtroppo. Diciamo che bisogna comunque rientrare dal debito, però c'è modo e modo per rientrare dal debito. Allora, innanzitutto queste sono misure che purtroppo vanno ad intaccare troppo sulla vita dei cittadini. Sì, perché qui si tratta veramente, poi non è che si rifiuta il nostro radioascoltatore, così come tutti quelli che si trovano nella sua condizione, di adempiere a quelle che sono le richieste fatte dall'ASL. Però ci si domanda, e si domanda lui per primo, ma insomma, se sono un diabetico cronico, se non ho la possibilità di mettere in fila i presidi di cui ho bisogno, perché comunque questa è la mia situazione, insomma, che cosa mi è andata a chiedere? Questa è un po' la sostanza, no? Sì, partiamo dal fatto che io ho ribadito il fatto che effettivamente la norma esiste qui nella Regione Lazio. Ora, sulla norma, la norma è discutibile, certo, certo. Seppur sussiste la necessità di rientrare dal debito. Perché? Perché comunque le modalità per rientrare dal debito sono anche diverse da queste, certo. E sicuramente, seppur si volesse procedere ad un controllo e monitoraggio della prescrizione dei presidi per i diabetici, sarebbe importante che tutti gli oneri non ricadessero sul cittadino, cioè il cittadino non si deve preoccupare di avere il piano terapeutico del medico diabetologo, portarlo, certo, al servizio farmaceutico, certo. Bisogna che gli operatori, gli attori della sanità laziale, giusto, comunichino tra di loro, senza coinvolgere in questa comunicazione per l'invio del certificato, del non certificato, insomma, le procedure amministrative devono rimanere interne all'amministrazione e non devono pesare sul cittadino. Questo è correttissimo, cioè praticamente sta dicendo, invece di andare a rompere le scatole al cittadino, poi abbiamo sentito che Napoleoni è una persona molto attiva e molto giovane anche nell'età, intendo dire, quindi se le cava da sole le battaglie, se le affronta da sola, invece di andare a chiedere al cittadino, e quindi ce ne possono essere alcuni che sono impossibili ad essere così combattivi e aggressivi come Napoleoni, ma invece di chiedere a lui, è bene che si abbia una procedura interna, cioè il medico curante, il diabetologo, saprà bene che cosa rispondere all'ASL di competenza. È così, no, Aceti? Sì, noi da sempre andiamo dicendo, in quanto organizzazione, che le procedure amministrative devono pesare non sul cittadino, sul paziente che già ha il carico della patologia, ma sicuramente devono rimanere di competenza dell'amministrazione, come ad esempio in questo caso l'informatizzazione di tutti gli operatori interessati nel processo di cura è fondamentale, cioè il fatto che il medico di medicina generale, la ASL e i medici specialisti, nel caso di gli diabetologi, comunichino su una piattaforma informatica senza ricadere sul cittadino, eliminerebbe tutti i problemi sollevati dal cittadino nel caso specifico, e sicuramente aiuterebbero un controllo e un monitoraggio della spesa, esatto. Molto molto più preciso. Ecco, Aceti, noi avremmo dovuto avere anche Sandro Gentile, che è il professore presidente dell'Associazione dei Medici e Diabetologi, all'ultimo minuto è mancato il suo collegamento, non mancheremo di chiamarlo nei prossimi giorni se avremo occasione di farlo. Chiedo a lei dunque, ma qual è la percentuale di italiani che è affetta da diabete cronico? Allora, guardi, noi abbiamo presentato proprio l'altra settimana il rapporto nazionale sulle patologie croniche. Sì. Innanzitutto, secondo i dati ultimi dell'Istat, secondo l'annuario statistico italiano del 2009, il 38,8% dei residenti in Italia ha dichiarato di essere affetto da almeno una delle patologie croniche rilevate, okay, che sono molte. Il diabete è tra le condizioni croniche più diffuse, con il 4,8%. Benissimo, io la ringrazio, Aceti, della sua concretezza e del rispetto dei tempi. Ringrazio ovviamente in regia Pietro La Corte e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.